Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Cominciai a sentire parlare del trasferimento in Congo che ancora andavo alla scuola materna. Quando si è bambini tutto sembra naturale, così mi stupivo dello stupore degli altri. Qualcuno poi non mi credeva, guardandomi perplesso. Ciao, mi chiamo Laura, ho 53 anni, vivo a Milano e sono sposata con Alessandro che è un insegnante. Abbiamo due figli di 18 e 22 anni che studiano tutte e due. Il più piccolo vuol diventare pasticcere, l'altro studia informatica. E poi abbiamo un ragazzo che per vari motivi preferisce stare da noi che non a casa sua e quindi è considerato il terzo figlio. Da Torino a Roma in aereo sono stata spedita e affidata ad una hostess. Avevo 7 anni, con mia sorella di 9. Viaggio breve ma turbolento, ho vomitato in un sacchetto e sofferto come un cane di claustrofobia. Un trauma che mi porto ancora dietro. Detesto volare, ne sono terrorizzata. Giulia. A 6 anni sono stata spedita per la prima volta ad Oslo da mia nonna in aereo per le vacanze estive. Rigorosamente con scalo a Copenaghen, il primo di tanti voli. Nessuna ansia, solo emozione per il fatto di essere piccola e in viaggio. Tatiana. 1978, 12 anni. New York in aereo per la prima volta, accompagnato da una hostess a trovare lo zio americano. Bellissimo, Andrea. Sono le 16:08 minuti, Radio 24, il programma è Voi Siete Qui. Buongiorno a tutti, è un venerdì qualunque, 22 di marzo, in una Milano che ha un cielo che ricorda più quello della Nuova Zelanda che quello della Lombardia. Averlo mai visto, tu dirai, Pietro Lacorte, il cielo della Nuova Zelanda, e c'hai ragione pure tu, però quella è un pochettino l'idea che dà la giornata che splende oggi su Milano. Io vorrei chiedervi, è venerdì, giusto, starete tornando probabilmente a casa dal lavoro se lavorate fuori, o forse state finendo la giornata di lavoro e quindi la settimana, o magari siete già in macchina con la vostra famiglia, insomma siete in viaggio. Prendetevi 2 minuti, come ha fatto Laura. Laura se ne è presa più di 2 probabilmente per ricordare questa esperienza di bambina e di viaggio che lei fece da sola da Kinshasa a Milano per tornare in Italia. Ve la racconterò meglio la storia. Voi però, vi dicevo, prendetevi 5 minuti e cercate di ricordare il viaggio, il primo viaggio da bambini che avete fatto da soli. 349-238-6666. Anzi, facciamo una cosa, guarda. Oggi apriamo il telefono. 800-24-0024. Eravate dei bambini, avevate 10 anni, 8. Per cui non era solo strano fare un viaggio da soli, era proprio già strano stare da soli. Invece dovevate andare a trovare, che so io, il papà o la mamma, i genitori non potevano venire, voi dovevate andare dagli zii. Insomma, storie di solito di parentela comune. Vi hanno messo su un treno, vi hanno dato un accompagnatore, vi hanno messo su un aereo, un traghetto o in macchina con qualcuno. 800-24-0024. Tornatela con la memoria. Non abbiate paura della vostra infanzia, non abbiate paura della vostra tenerezza. Questa l'ho buttata lì come un Francesco qualunque. C'è questa, il fatto che non abbia un numero romano dopo il nome, lo sembra tuo zio. Francesco ha detto, cioè se fosse stato Francesco I era chiaro che era subito il Papa. Invece se tu dici, sai cosa ha detto Francesco? Francesco chi? 800-24-0024, il primo viaggio da bambini da soli. Mi piacerebbe proprio che mi raccontaste dove andavate, come eravate, che sensazione provavate. Cristina, giugno 81. Io ho 8 anni, mia sorella 11. Ogni estate, alla fine della scuola, mia mamma ci metteva sul treno per Milano, dove ci veniva a prendere lo zio per portarci da loro a Gavirate. L'abbiamo fatto per 5-6 anni. Ecco, magari anche luoghi un po' più esotici, o comunque qualunque sia stata la vostra destinazione. Il primo viaggio da bambini da soli. 800-24-0024. Laura si è sparata da sola da Kinshasa a Milano. Cominciai a sentir parlare del trasferimento in Congo che ancora andava alla scuola materna. Quando si è bambini tutto sembra naturale, così mi stupivo dello stupore degli adulti. Qualcuno poi non mi credeva, guardandomi perplesso. Non capii neppure le lacrime ed il nervosismo che anticiparono la partenza di mio padre, che precedette di 6 mesi me e mia madre. Quando venne anche il nostro momento, avevo terminato la prima elementare e passato 1 mese alla colonia estiva della Carlo Erba, l'azienda di mio padre, a Celle Ligure. Era l'estate del 1966. Il primo uomo di colore che vidi di persona fu sull'aereo tra Roma e Kinshasa. Lo studiai stupita tra l'ilarità generale. L'unico uomo bianco che invece vidi all'atterraggio fu mio padre. Ricordo che subito partì la ricerca di una scuola, per me iniziata poche settimane dopo il nostro arrivo. Non ricordo quanti anni avremmo dovuto fermarci, ma dopo neanche uno le cose presero una brutta piega. Per capirne le vere ragioni bisognerebbe interrogare uno storico. Io ricordo solo che l'estate seguente, terminato il mio complicato anno scolastico, improvvisamente le persone intorno a noi cambiarono atteggiamento, smettendo di esserci amiche. Alle normali difficoltà, come quella di reperire cibo e acqua commestibili, se ne aggiunsero altre, come il coprifuoco o i posti di blocco, dove era sufficiente essere bianchi per venire fermati. Io ero una bambina, avevo 8 anni, però avvertivo che l'aria intorno a me era diventata pesante, era cambiata, non si usciva più tanto per andare ai ristoranti, non si faceva più la bella vita che fino a quel momento avevamo fatto. Era una sensazione più che un fatto vero e proprio. Una mattina mi svegliai con una strana sensazione. C'era un grande silenzio. Sentivo solo il canto degli uccelli in giardino. Sembrava domenica, ma io sapevo che era un giorno qualsiasi. Davanti a casa, lentamente, una folla immensa stava riempiendo la Place de la Gare. Tutti erano armati, ubriachi, urlanti e minacciosi. Sappemmo dopo che avevano assalito e distrutto l'ambasciata belga. E in quel momento stavano rivolgendo la loro rabbia contro la statua di Re Leopoldo del Belgio, che campeggiava su un monumento posto al centro della piazza. Dopo aver acceso un fuoco alla base, con delle corde riuscirono a scardinarla e a farla cadere. Mio padre riuscì a filmare tutto da dietro le tende. Poi qualcuno vide la nostra casa. Forse si ricordò che era abitata da bianchi e quindi rivolsero lì le loro attenzioni. Tutti i vicini si erano rifugiati da noi. Stavamo ammassati nel corridoio, unico locale senza finestre. Qualcuno, insieme ai boys, i ragazzi che lavoravano in casa, accorsi la mattina presto per esserci d'aiuto e avvisarci del pericolo, cercava di capire che intenzioni avessero sbirciando dalla finestra della cucina. Mio padre, anni dopo naturalmente, si confidò con mio marito, raccontandogli di quei momenti e della sua decisione di uccidere me e mia madre, pur di non farci cadere in quelle mani. Mio marito non sapeva che io non ero al corrente di ciò, forse non lo era neanche mia madre. E anni dopo, mio padre ormai era scomparso, lui me ne parlò e fu uno shock, uno degli shock più profondi della mia vita. Quando la casa era ormai assediata, i ragazzi, i boys, si fecero coraggio affrontando la folla, spiegando che non eravamo belgi, nemici, ma italiani, amici. Fu così che ci salvammo. Poi fummo costretti a lasciare la casa per cercare un rifugio molto più sicuro. He was the one who cured my pain, the one who rescued me from sure death. He went across the land of no souls, through the endless depths, a prison hole. All'epoca, presso l'aeronautica militare italiana a distanza a Kinshasa, 2 volte la settimana alla sera c'era il cinema all'aperto, vecchie pellicole viste e riviste. Tra queste vidi più volte il diario di Anna Frank. Ecco che, quindi, d'improvviso mi trovavo a vivere quasi come lei, ospitati da connazionali in un appartamento in cima a un grattacielo, facendo attenzione che meno persone possibili si accorgessero della nostra presenza. Poi finalmente la situazione sembrò calmarsi, però i miei decisero che non era posto per me. Ripristinati i collegamenti con il mondo, fui quindi imbarcata sul primo aereo in partenza per Roma. Io passavo così, senza saperlo, da un'avventura a un'altra, molto meno pericolosa, ma ben più impegnativa per una bambina della mia età. Avrei viaggiato in custodia ad una coppia di Roma, la cui casa, troppo vicina all'ambasciata belga, era stata assalita e distrutta completamente. Non ho mai saputo se loro ne erano usciti incolumi. Ricordo però che cos'era rimasto nel loro appartamento. Si camminava sopra resti di mobili, vetri, vestiti, cibo, sangue. Da una finestra si vedeva la palazzina di fronte, dalla quale penzolava un condizionatore appeso per i cavi, e sopra il condizionatore c'era incastrata una povera bambola. Dal momento che il marito era dipendente all'Italia, avevamo un trattamento di favore, fatti passare davanti a tutti. Venimmo fatti accomodare nel salotto dell'aereo. Durante il viaggio tentavano di darmi retta, ma ricordo che almeno una volta fui invitata a tacere. Atterrammo a Roma, credo a Ciampino. Nei miei ricordi di quei momenti ho una serie di immagini, come dei flash. Ora sto camminando al fianco della coppia in uno spazio ampio. Davanti a noi delle transenne che fermano le persone in attesa. Loro due che si lanciano di corsa verso queste persone, le abbracciano e se ne vanno tutti insieme. E io che resto sola a pensare, ma come? Non mi hanno neanche salutato. Mi ricordo in aereo quest'aria rassegnata, questo guardarsi negli occhi, le spalle curve, questa atmosfera, anche qui un'atmosfera proprio pesante, triste. Io che invece ero eccitata per il viaggio, perché si tornava a casa, per tante cose, e loro che non avevano proprio voglia di darmi retta, e poi li vedo andare via di spalle e non li ho più visti, non abbiamo più saputo nulla di loro. E poi una hostess sorridente che mi prende per mano. Non ho paura. Non capisco, però mi sento tranquilla. La hostess, sempre sorridendo, consulta le carte che ha in mano, verifica la mia identità e mi dice: Emilio Trezzi, chi è? Mio zio, rispondo io. Allora, mentre aspettiamo la tua valigia, mi dice: guarda se lo vedi là in fondo, è a lui che ti devo affidare. Aspettiamo molto tempo alla consegna dei bagagli e una volta entrata in possesso della valigia, io mi azzardo a fare presente che un anno prima ero partita da Milano e che probabilmente era lì che dovevo tornare. La signora ricontrolla le carte e sì, è proprio così, non ha visto bene, io non devo fermarmi a Roma ma proseguire per Milano. Inizia così una febbrile corsa per l'aeroporto, nel tentativo di farmi prendere l'ultima coincidenza, ma è troppo tardi. Mi trascina quindi in uno spogliatoio dove, mentre prende le sue cose, spiega a me e ad alcuni colleghi che dobbiamo correre all'aeroporto romano, all'altro aeroporto romano, Fiumicino immagino, per prendere l'ultimo aereo Roma-Milano. Ed eccomi nel flash successivo, siamo in taxi, un taxi che corre tra le luci della città, con l'autista che si gira a guardarmi e ride nel sentire le mie disavventure. Nell'aeroporto successivo entriamo di corsa, come si vede in certi film. Attraversiamo saloni, porte, corridoi e sbuchiamo all'aperto, nel buio, la pista. Vengo fatta salire a bordo, un'altra sorridente signorina mi trascina lungo il corridoio, mi siedo, mi allacciano la cintura e si parte. E poi finalmente atterriamo, l'aereo si ferma, si apre il portellone. Un uomo si affaccia urlando: Locatelli, Laura Locatelli, è qui? La hostess mi strappa dal sedile e prima che gli altri passeggeri si possano alzare, mi affida a lui. Io e la mia valigia veniamo di nuovo trascinate di corsa attraverso questo spazio totalmente buio verso un edificio che brilla nella notte. Una porta scorrevole si apre, c'è una passatoia e poi ecco una folla che urla il mio nome. Qualcuno piange, tutti guardano me. Io non riconosco nessuno. Una signora con i capelli cotonati urla più degli altri, mi strappa dalle mani del mio accompagnatore e mi abbraccia. Al suo fianco, finalmente riconosco mio zio. È finita. Anzi no, l'ultimo flash è un'auto che corre lungo l'autostrada e poi su, per le valli. Quindi l'ultima salita da affrontare in velocità per la pendenza. Sfreccia davanti alla casa dei nonni e intravedo il nonno alla finestra del sottotetto dove ha la camera. Non gli hanno detto nulla, non gli hanno detto che stavo tornando, per non farla agitare. Semplicemente alcuni giorni prima mia nonna ha cominciato a dirgli di sognarsi di notte il mio ritorno. Salto giù dall'auto, corro verso casa e salgo le scale. Sono tra le braccia dei nonni. È finita sul serio. Light years before heavy drinking, she tried to teach me how to sit cross-legged underneath the table. Al volo, prima di entrare in studio, ho fermato Giampaolo Musumeci, che è un po' il nostro esperto di esteri, di conflitti più che altro, e gli ho chiesto qualcosa sul Congo e ho capito poche cose abbastanza confuse, però sostanzialmente che il Congo viene annesso dal Belgio nel 1908, all'inizio del secolo scorso, e rimane una colonia belga fino al 1960, infatti il nome era Congo Belga. Nel 60 raggiunge l'indipendenza e cambia nome, diventa Zaire, e poi da poco, credo, adesso la data non me la ricordo, è tornata ad essere Repubblica Democratica del Congo, cioè è Repubblica Democratica del Congo. In una di queste fasi di passaggio si trovava Laura e la sua storia. Pronto Laura? Sì, pronto, ciao. Ciao, buongiorno, come stai? Bene, tu? Bene, bene, grazie. Dove ti trovi adesso, Laura? Sono a casa. Sei a casa da queste parti, sì. Giusto? Sì, sono a Milano, sono di Milano, abito in fondo via Padova. quindi tipo Crescenzago. Ci tenevo a dire Crescenzago perché passiamo un po' così, da Kinshasa a Crescenzago, ci sono delle scie e delle Z in mezzo. Mi racconti che cosa ti ricordi di quel periodo? Nel senso che c'è un pezzo del tuo racconto molto bello che ho dovuto tagliare perché non ci stava, in cui racconti di questo posto come un posto magnifico all'arrivo, no? Dove si viveva bene anche. Sì, sai, noi facevamo la vita dei bianchi. Certo, sì, da bianchi si viveva bene, bianchi, questo è scontato. Quindi, sì. Ristoranti, gite, e poi era tutta una scoperta, cioè gli animali dello zoo piuttosto che al giardino botanico, la pianta che quando la toccavi si faceva sì. Cadere le foglie. Tu facesti un anno di scuola lì, giusto? Io lì sì, ho fatto la seconda elementare, sono arrivata che non parlavo niente di francese, niente. Quindi sono stata infilata in questa scuola dove ero l'unica bianca in tutta la scuola. Non fu facilissimo, immagino. No, era stato abbastanza complicato. Quindi, uno per la lingua, ho dovuto imparare il francese, però sai, secondo elementare l'ho imparato anche molto velocemente, no? Sì. Che delle spugne da bambini. E poi un pochino anche l'aggressività di alcuni bambini. Però mi ricordo che avevo delle compagne femmine di classe che mi difendevano, che mi proteggevano. Com'era il clima? Intendo dire proprio la temperatura. Faceva tanto caldo in Congo? Era pazzesco. Cioè si passava da queste giornate tipo i monsoni in cui pioveva, diluviava. Avevamo una pozzanghera dietro casa in cui i bambini riuscivano a nuotare quando pioveva, da tanto che si riempiva, a un caldo allucinante. Mi ricordo credo una domenica, perché mio papà era a casa, in cui eravamo tutti e tre sdraiati per terra e ogni poco tempo cambiavamo posto e lasciavamo giù una pozzanghera di sudore perché faceva un caldo pazzesco. Voi, Laura, eravate lì perché il tuo babbo, mi sembra di capire, aveva un lavoro che l'aveva portato lì. Che lavoro sì. faceva, per chi lavorava? Papà era un tecnico e la Carlo Erba, azienda farmaceutica che adesso sì. non credo ci sia più, aveva aperto uno stabilimento di produzione di medicinali e mio papà era giù per la manutenzione e insegnare agli indigeni a fare la manutenzione dei macchinari. Quindi insomma voi arrivate, l'inizio dura tutto un anno per te, giusto, nei tuoi ricordi? Per l'inizio sì. tutto va sì. bene, insomma al di là della scuola eccetera eccetera, e a un certo punto l'atmosfera cambia e si arriva a quel giorno lì in cui c'è una massa di persone, mi dicevi prima fuori onda, immaginati Piazza Duomo piena di gente molto arrabbiata che a un certo punto si gira e guarda casa tua. E sì. Lì quelli che tu chiami i boys, cioè immagino i ragazzi che lavoravano per voi, no? In per casa voi, sì, perché in che modo riescono a convincere una massa di persone? Guarda, non penso che siano scesi, abbiano parlato con qualcuno e hanno fatto capire che eravamo italiani. Gli italiani erano ben visti giù in come mai gli italiani erano ben visti? Non lo so, forse portato lavoro, magari cioè non c'era solo la Carlo Erba, c'erano anche altre aziende italiane, c'era l'aeronautica italiana giù che aveva portato gli aerei, insegnava e addestrava i loro piloti. E invece, quindi forse... e quindi sì, probabilmente c'era un indotto che arrivava dagli italiani lì. E poi purtroppo devo chiudere a breve. Laura, mi dici invece i giorni passati nel grattacielo, nascosti in un appartamento, ti ricordi più o meno? So che da bambini i ricordi sono diversi, no, rispetto a quelli da adulti, ma quanti giorni, quanto tempo ti ricordi? Non avete lo passato? So, non tantissimi, penso due o tre giorni. A me piaceva perché dormivo nel lettone in mezzo alla mamma e al papà e ho proprio questo ricordo dall'alto. Mi era stato detto che eravamo andati lì perché c'erano due scale, due ascensori, quindi se qualcuno minaccioso fosse arrivato da una parte si poteva scappare dall'altra e poi dall'alto si vedeva se sarebbe arrivato qualcuno. Quando tu sei arrivata in Italia, dopo quanto sono tornati i tuoi? Dopo 6 mesi circa. Quindi l'hai fatti con i nonni quei 6 mesi lì? Sì, ho vissuto con i nonni, esatto, sì, a Milano. Poi. Laura, ti ringrazio per la storia e per la chiacchierata e in bocca al lupo per tutto. Grazie a te. Buona ciao, giornata. Matteo. Ciao, grazie. Nel 68, 8 anni in treno da Milano Centrale a Lecce. Ricordo il casino, l'assalto al treno e mio padre che mi affida a una signora nello scompartimento. Andavo dalla nonna al mare e chi se ne fregava dell'essere solo. I vostri primi viaggi da bambino accompagnati da chissà chi. La immagino. Sembra essere, nella foto che ci ha mandato Laura, nel salotto buono di casa sua a Crescenzago, in fondo a via Padova. Ha su un maglioncino nero, è un po' in posa da foto, tipo dai su, fai, così poi abbiamo finito. È seduta su un divano elegante, come si chiamano quei divani che sono in legno ma impunzonati, imbottiti? Cioè, che è uno in quei divani su cui in realtà non ti siedi mai perché sono un po' scomodi. La cosa però interessante è che alle spalle, e secondo me ce l'ha fatta apposta a questo punto, ci sono due maschere tipicamente africane. Congo, regione dell'Africa centrale, oggi divisa in due stati: Repubblica del Congo, già Congo francese, e Repubblica Democratica del Congo, già Congo belga e Zaire. Congolese, abitante, nativo della Repubblica del Congo e della Repubblica Democratica del Congo. Data 1936. It's a big honor to be part of that too. Plus I got a whoop George. We gonna rumble in the jungle. Era il 1974, per l'esattezza il 30 di ottobre, e tutto il Congo, ma soprattutto Kinshasa, viveva un attimo di notorietà perché lì accadeva quella che avete sentito, the rumble in the jungle, cioè la lotta nella giungla. Perché? Cosa succede? Succede che Muhammad Ali, che è il più grande campione di pugilato al mondo, ha un periodo in cui non combatte, è fermo per la storia che viene chiamato in Vietnam, lui non ci va, allora gli tolgono la corona, bla bla bla. Arriva George Foreman ha il campione in carica e lui lo vuole sfidare per pigliarsi sta corona, e dove lo sfida? Dice: andiamo in Africa. C'è questa tutta questa sorta di poetica legata all'essere nero, all'Africa, a riprendersi la corona. Lui arriva ed è veramente un re, infatti c'è questo documentario bellissimo su di lui che si chiama Quando eravamo re, e ci sono pezzi di video, di audio di bambini che lo accolgono e lo seguono mentre lui si allena per la strada urlandogli Ali Bumai che sta per Ali uccidilo. Il tutto accade in quella notte lì, il 30 ottobre del 74, in questo stadio a Kinshasa, in cui in sostanza Muhammad Ali fa sfogare Foreman per 11 riprese, lo fa stancare facendosi pigliare a pugni, poi si apre da due botte, questo va giù e lui diventa campione del mondo. Il tutto in una Kinshasa ripulita da Mobutu, che diceva avesse creato delle carceri sotto lo stadio. Vabbè, ci facciamo una puntata di Destini Incrociati, ma ci sarà, immagino. Destini Incrociati, Matteo Caccia incontra Muhammad Ali. Muhammad Ali. 349-238-6666, soprattutto 800-24-0024 per parlare del vostro primo viaggio da bambini. Però un'ultima cosa sul Congo: qualcuno mi scrive, il Congo non era una colonia belga ma proprietà personale di re Leopoldo del Belgio, un unicum mondiale, mi scrivono. 800-24-0024, vai, apriamo il telefono, andiamo, stiamo qui a Milano, andiamo da Eric. Pronto Eric? Pronto. Ciao, come stai? Bene. Bene, dove ti trovi? Adesso sono zona Novara, credo. Zona via Novara? No, Novara verso Milano, rientro in città. Ah, ok, cosa fai? Da dove arrivi? Ero a Ginevra. E cosa fai, Eric? Io? Commercio, acciaio. Però lo dici piano, perché in realtà non è vero. Ero dagli fornitori. Ok, va bene, andiamo a quando hai fatto il tuo primo viaggio. Quanti anni avevi? Con chi eri? Ma i primi viaggi sin da neonato, appena nato, perché siamo sempre stati una famiglia di viaggiatori. Mio padre aveva un'azienda di costruzioni, lavorava all'estero. Sì. E quindi già appena nato sono partito, il mio primo viaggio è stato in fasce, siamo andati a Sirte, siamo rimasti per tanti anni a Sirte. Sirte? Che è? Dov'è Sirte? In Libia. In Libia, ok. Libia, poi a Tripoli e poi tanti altri viaggi. Però il primo viaggio da solo, che mia madre mi ha spedito via con mio fratello, da mio padre, perché mia madre non ci poteva raggiungere, fu ad Algeri quando avevo 8 anni, mi pare, con mio fratello che ne aveva 11. Ma con che mezzi? In aereo. Ok, partendo da Milano? Da Milano, sì. Però cosa succede? Che non c'era un volo diretto, o forse qualche tariffa, non lo so, noi abbiamo dovuto fare 4 ore di scalo a Marsiglia. Bello, da soli a 7-10 anni, cosa avete fatto? No, non eravamo da soli, perché poi ci hanno messo nelle mani delle hostess con quei grandi cartelli con su scritto il nome in grande, dove vai, dove vieni, tutte queste robe qua. Poi mio fratello un po' ci eravamo ribellati, perché noi eravamo già dei viaggiatori esperti. Beh certo, a 7-10 anni, come no? Cioè eravamo in grado di prenderci il nostro aereo e andare da soli. Poi quel cartello odioso ce l'hanno attaccato al collo e insomma abbiamo fatto il viaggio. Che brutta immagine, il bambino col cartello al collo. Eric, ti ringrazio, ti faccio tornare a viaggiare verso Milano, grazie. Va bene. Buona giornata, ciao. Mi scrivono, per la cronaca, la Carlo Erba esiste ancora, però forse è stata mangiata da qualcuno, assemblata. Allora, questa è la roba per cui il marketing della Carlo Erba, capito, lavora per anni per fare un processo di comunicazione, poi arriva un cretino qualunque che alle 16.39 dice, boh, forse è stata mangiata da qualcuno. 349-238-6666, andiamo... Paolo, provincia di Pordenone. Pronto, Paolo? Pronto? Ciao, mi senti? Sì, ti sento. Ciao, ciao, io sono Matteo. Ciao, io sono Paolo. Benissimo, cosa stai facendo, Paolo? Adesso sto passeggiando per una strada qui, che mi sono fermato per rispondere alla vostra telefonata. Bravissimo. Ricordo come funzionano le cose, che uno chiama noi e noi richiamiamo, perché sennò sembra che siamo noi che chiamiamo. Ah. Hai voglia di raccontarci dove viaggiavi da bambino? Me lo racconti il tuo viaggio, Paolo, da bimbo? Beh, è stato un viaggio un po' strano, perché dovevo andare in Francia... perché si sposava mia zia, la sorella di mio padre, sì. E mi hanno imbarcato un mese prima sul treno da Casarsa, che è una piccola stazione qui in provincia di Pordenone, e sono andato a Marsiglia. Ma un mese prima lo dici per scherzo o un mese prima? No, un mese prima inteso che mio papà poi sarebbe venuto per il matrimonio, io sono rimasto in Francia lì A 12 anni. Da mia zia, a 12 anni, no? Cosa è successo durante quel viaggio? È successo, io mi ricordo questo viaggio lunghissimo che non finiva, interminabile per me, perché per non fare scali e salire nel treno a Casarsa e scendere a Marsiglia, abbiamo dovuto scegliere un locale. E quindi tutte le fermate nella Liguria, una roba... Era un locale che faceva Casarsa Marsiglia? Esatto. Ma, fino a Milano credo che è andato anche abbastanza veloce. Io comunque non ho cambiato carrozza, non ho cambiato niente. Tu sei rimasto bello secco sulla tua carrozza per 20 ore? Tutta la notte, dal pomeriggio all'indomani mattina. Che cosa fai nella vita, Paolo, scusami? Sono un commerciante. Sei un commerciante, ok. Ti ringrazio per la telefonata, Paolo. Buona giornata. Prego. Ciao. Grazie, ciao. Torniamo a Milano da Sergio. Pronto, Sergio? Sì, pronto, ciao. Ciao, come stai? Bene, grazie. Sei in macchina? Sì, sono in macchina sulla tangenziale. Tornando da Pavia. C'è tanto traffico? Parecchio. Perché oggi c'è lo sciopero dei mezzi. Sì, lo so, però insomma spero di non trovare poi sulla Milano-Cormano... Sulla tangenziale abbastanza fluido. A voglia, guarda, lì è proprio un delirio. Ci sono passato prima io venendo. Sergio, cambia strada. No, beh, devo andare per forza vicino a Monza, quindi sono costretto. Va bene, raccontami da dove arrivavi, quanti anni avevi, dove andavi. Dunque, io sono nato in Iran, a Teheran, da genitori italiani. Mio padre lavorava in una società del petrolifera francese. In che anni? E io sono nato nel 51 e il primo viaggio l'ho fatto nell'ottobre del 60, spedito in collegio a Milano a San Carlo, interno. Dove ho passato, sei un San Carlino quindi? Sì, 10 anni dal 1960 al 1970, sempre interno a San Carlo, con 3 viaggi all'anno andata e ritorno da casa Milano-Teheran via Roma. Scusa Sergio, ma tu non c'hai ancora scritto una storia, devi mandarcela immediatamente, prenditi mezz'ora e raccontacela. Cioè siccome sono vecchiotto e poi faccio un mestiere che mi porta sempre sui cantieri, quindi... Che lavoro fai? Faccio l'architetto. E invece che ricordo hai di Teheran? Eh? Che ricordo hai di Teheran? Che città era? No, io ci sono tornato fino a prima, l'ultimo viaggio che ho fatto era 74, poi non sono più tornato. Lì vive ancora la sorella di mia mamma, che mia mamma ormai non c'è più, e vive a Teheran e quindi ci sentiamo al telefono. Ma io non posso rientrare a Teheran perché essendo nato lì, parlando la lingua, insomma, sono abbastanza schedato con gli altri miei due fratelli e quindi non ci concedono il visto di entrata. Ma perché mia mamma lavorava col vecchio regime, quindi non possiamo, non ce lo concedono. Cioè, ma tu parli anche il farsi. Perché ci prendono per possibili spie, conoscendo lingua, conoscendo la mentalità locale, quelle cose lì. Vabbè, e poi devo salutarti, Sergio, ma tu parli il farsi? Si parla il farsi? Sì, parlo persiano, inglese, francese, italiano. Wow, rock and roll. Sergio, grazie mille. Prego, ciao, fai buon viaggio. Buona giornata anche a te. Ciao. Il divano, mi dicono, è il Chester. Si chiama così quel divano lì che è imbottito. Però sarete d'accordo che è uno dei divani più scomodi della terra. E poi diamo delle informazioni precise. La Carlo Erba non esiste più, è stata acquistata dalla Pfizer. multinazionale americana del Viagra, vabbè, per paura, perché bisogna identificarla così. Sono le 16.44, finisce questa settimana, di voi siete qui, io ringrazio tutti quelli che l'hanno resa possibile, Tiziano Bonini, Pietro Lacorte, Margherita Inia e soprattutto Laura, l'autrice della storia, perché la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Anna, sono di Bologna, la storia di lunedì è la mia e parla di una molecola e di come influenza l'umore. Questa è la mia storia e io sono qui.